Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Questa è Visionari, il cinema su queste frequenze, il giovedì dalle 14 alle 15, oggi subito dopo il giornale radio. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sempre sul sito internet della radio, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Allora, cominciamo subito con i nostri ospiti, perché abbiamo in collegamento telefonico Mario Chemello, regista del documentario Tenacemente Donne. Mario, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Allora, ho visto il tuo lavoro al Via Emilia Doc Fest, subito mi ha incuriosito la tematica, raccontiamola a chi ci sta ascoltando, Mario. Sì, dunque, allora, l'anno scorso, la tematica è quella del calcio femminile, che è un po' il calimero degli sport italiani, nel senso che è uno sport che ha una storia, una tradizione e anche una nobiltà, diciamo così, piuttosto elevata, però ovviamente rimane totalmente misconosciuto all'ombra di quello che è l'impero del calcio maschile, l'impero mediatico, l'impero economico, l'impero sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista dell'interesse del pubblico. E in verità, quando sono stato contattato dalla Fondazione Sport del Comune di Reggio Emilia, che mi ha chiesto di fare questo documentario, anch'io del calcio femminile non ne sapevo praticamente niente, sapevo che esistesse, va, però niente di più. E per fortuna uno dei miei collaboratori storici, Fabio Aquila, invece, che è un vecchio calciatore, si è sempre interessato anche di questo aspetto dello sport calcistico e mi ha dato fin dall'inizio una gran mano dal punto di vista della documentazione, della scrittura e del capire, insomma, che il mondo che c'era dietro al calcio femminile, ecco. Mm-hmm. Senti, com'è il panorama a questo punto, visto che ne so meno di te, il panorama italiano? Cioè, ci sono squadre un po' in tutte le regioni, ci sono dei campionati, diverse categorie? Sì, allora, dal punto di vista formale è così come hai detto tu e rispecchia un po' l'organizzazione del calcio femminile, del calcio maschile, c'è una serie A, una serie B, promozioni, campionati giovanili, squadre che hanno le pulcine, le piccole e così via. Negli anni 80 c'era stato uno sviluppo notevole, dunque bisogna partire da un presupposto che sì, all'estero il calcio femminile è molto più importante che in Italia e in certi paesi come gli Stati Uniti, ad esempio, è sicuramente prevalente rispetto al calcio maschile. Poi negli Stati Uniti chiaramente ci sono altri sport che hanno molta più importanza rispetto al calcio tout court, per cui questo è naturale, però diciamo che il calcio femminile in altri paesi raduna centinaia di migliaia di appassionati, di spettatori, riempie gli stadi, eccetera. In Italia, come ho detto, praticamente non esiste, insomma, a livello di passione per i parenti e gli amici delle calciatrici, ecco, delle persone che fanno parte delle squadre, poco di più. Senti, i primordi quando ci sono stati in Italia? Allora, ti dicevo, nei primi anni 80, diciamo sì, ed è stato un interesse che è cresciuto per tutti gli anni 80 e poi si è un po' ammosciato e morto praticamente negli anni 90. Alcune squadre addirittura già dagli anni 70, anzi dall'inizio degli anni 70, hanno iniziato a giocare. Infatti la Reggiana Femminile, che è l'oggetto del nostro documentario, esiste dal 76. Addirittura una delle grandi campionesse, che poi è anche la presidente della Reggiana Femminile, che è Betty Vignotto, già giocava i mondiali femminili nel 1970 in Messico, è stata una cosa particolare, perché lei infatti nel documentario ci racconta della sua emozione nel giocare allo Stadio Azteca, al mitico stadio di Città del Messico, quello dove giocò la nazionale italiana, la famosa nazionale del 4-3 dell'Italia-Germania 4-3, sì. Insomma. E per cui diciamo è una storia vecchia, ecco, sì, quella, sì, del calcio, sì, femminile. No, noi addirittura, ti dico solo questo, negli archivi dell'Istituto Luce abbiamo trovato dei materiali d'archivio delle partite riprese in modo più che scherzoso ancora durante il ventennio, durante gli anni del fascismo. Senti, suddividendo per regioni, c'è un'uniformità tra nord e sud, province, città? Come... Bah, senti, le città importanti, cioè a Roma ci sono sempre state squadre importanti, la Lazio femminile ha generato varie campionesse. Qui in Emilia, per esempio, come ti dicevo, Reggio Emilia ha avuto una squadra che si è fatta notare parecchio, quella di cui parla il mio documentario, con vari campionati nazionali vinti e varie Coppe Italia. In Sardegna, per esempio, c'è una squadra storica, il Torres, che cioè è molto a macchia di leopardo la situazione, sì, per esempio, sì. Il Brescia è campione d'Italia femminile da molto tempo, da molto tempo, da parecchi anni ormai, ha una superiorità indiscussa, e dipende un po' da città dove le squadre riescono a trovare degli sponsor che investano cifre abbastanza consistenti per far partire le squadre, perché uno dei problemi delle squadre femminili è che con moltissima difficoltà riescono a generare, diciamo così, le primavere, no? Sì. Cioè le squadre giovanili che poi forniscono atleti nel corso del tempo alle prime squadre. Per cui ti dico, è veramente variegata la situazione, sì, fra nord e sud. Sono tante le atlete coinvolte? Dunque, a livello nazionale si parla di alcune migliaia. Beh, non sono tantissime, però c'è molto interesse, ultimamente sta crescendo molto l'interesse nelle fasce giovanili, okay, per cui nel range, diciamo, dei 12-17 anni, ecco. Sì. Senti Mario, come hai costruito e poi strutturato il tuo documentario? Beh, siamo partiti da interviste, perché okay, chiaramente, ovviamente, anche perché io per primo avevo bisogno di capirci qualcosa, per cui è iniziato tutto dalla lettura di un libro pubblicato sempre dalla Fondazione Sport, che è stata un po' la nostra Bibbia, che è un libro dal titolo ambiguo, nel senso che si intitola Giocare con le tette, e si riferisce però al fatto del giocare al femminile, appunto, ed è un po' la storia di come il calcio femminile sia sempre stato trascurato dal mondo dello sport e dalla FIGC in particolare, insomma, diciamo che contiene un po' un'invettiva contro l'establishment attuale della FIGC, Tavecchio in testa. E da lì poi siamo partiti con le interviste con Betty Vignotto, Milena Bertolini e altre calciatrici che adesso ruotano intorno al Reggio Emilia, alla Reggiana femminile, e che però appunto sono state delle calciatrici di primo livello a livello nazionale, e tramite loro abbiamo avuto un quadro della storia. Dopo ci siamo concentrati sulla storia di due attuali atlete della prima squadra e le abbiamo seguite un po' nella loro vita quotidiana. Sì. Nel rapporto, sì, una è una ragazza immigrata, ormai naturalizzata italiana, però è immigrata dal Kosovo, e un'altra è una reggiana, diciamo così, fra virgolette di buona famiglia, studentessa universitaria, e abbiamo giocato un po' con loro proprio sui loro percorsi esistenziali completamente diversi, e che però hanno poi coinciso, si sono uniti nella squadra e in un'amicizia molto forte fra loro due. Senti, mi hai parlato un po' del problema legato alla federazione, all'atteggiamento che ha verso lo sport femminile e anche la poca visibilità, ma sì. Tecnicamente, materialmente, quali sono i problemi del calcio femminile proprio che impedisce a delle squadre di giocare? Ovviamente il disinteresse della federazione da un lato, il disinteresse mediatico dall'altro, che sono entrambi causa e motivo, insomma un po' un circolo vizioso del disinteresse del pubblico. Sì. Anche perché ovviamente, e degli sponsor, immagino. E degli sponsor di conseguenza, questo viene da sé. Nel senso che chiaramente gli sponsor per qualche anno magari succede che uno sponsor importante finanzia una squadra, però dopo, nel momento in cui non ci sono ritorni dai diritti televisivi, non ci sono ritorni promozionali a livello di pubblico, perché appunto non andando in TV le partite non si vede lo sponsor, nei giornali se ne parla a livello di trafiletti solo nella stampa locale, anche i campionati nazionali, Coppa Italia femminile eccetera eccetera, appena appena vengono trasmessi da Rai Sport 2, ma solo le finali, le finalissime, c'è poca non c'è trippa per gatti, come si suol dire, no? Per cui le squadre breve tempo vengono abbandonate a se stesse, anche in un posto come Reggio Emilia, che pure insomma di attività economica ce n'ha finché ne vogliamo, e anche di alto profilo. La Reggiana fino all'anno scorso faticava tantissimo anche solo a sopravvivere, a trovare i soldi. Infatti nel documentario abbiamo inserito alcuni servizi d'archivio presi da Telereggio, in cui la presidente della squadra andava in TV a chiedere disperatamente aiuto per far sopravvivere la squadra, perché diceva perfino per le trasferte il biglietto del treno se lo devono pagare le ragazze. Non si parla di pullman, ma si parla appunto di biglietto del treno, perché per il pullman siamo lontanissime da potercelo permettere. Senti Mario, per avere informazioni sul tuo documentario hai uno spazio in rete? Se dunque, il documentario si trova nel nostro sito www.imagoorbis.it come link, e però si vede nel sito della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, che se uno va su Google e clicca Fondazione Sport Reggio Emilia esce subito, e nella home page dei video c'è il link e si può vedere integralmente. Senti, è possibile, c'è in prospettiva una sorta di uscita pubblica o passaggio televisivo o uscita in sala o... Beh, uscite in sala ne abbiamo avute alcune a seguito del Via Emilia Rock Fest durante l'autunno scorso qua in zona. Prossimamente non è previsto, anche perché fatalità, per loro fortuna, la Reggiana Calcio Femminile è stata assorbita dal Sassuolo, è diventata una delle creature di Squinzi, no? E per cui diciamo così i temi e la richiesta di aiuto anche che erano contenuti nel documentario sono stati un po' superati, per cui anche a Reggio Emilia, dopo le varie anteprime che abbiamo fatto nella primavera dell'anno scorso quando è uscito il documentario, e non c'è più stata questa urgenza, diciamo così, di farlo vedere per cercare una promozione per la squadra, perché appunto anche forse, spero, insomma, mi immagino anche grazie al lavoro che abbiamo fatto la primavera scorsa, appunto il Sassuolo si è interessato ed ha preso la squadra sotto la sua ricca ala protettrice, e adesso una buona parte dei problemi della squadra sono risolti. Quindi potrebbe aprirsi anche una nuova stagione proprio per il calcio femminile. Si sta aprendo, insomma, quest'anno. Infatti ho sentito la Vignotto, la presidente della squadra, un po' di tempo fa, ed era entusiasta di questo grande exploit, diciamo così, dal punto di vista finanziario, che le aveva permesso di smettere di passare notti insonni, insomma, a pensare a come pagare le fatture e le bollette della sede, e beh, soprattutto a giocare in un campo che fosse un campo vero, nel senso che adesso giocano al Mapei Stadium, che appunto è lo stadio del Sassuolo, e non nei campi di terra battuta, che non avevano neanche l'erba, insomma, per terra. Giocavano, pur essendo in Serie B, giocavano in dei campi dove veramente vanno a giocare i ragazzini la domenica, insomma, ecco, situazioni così. E prossimamente adesso stiamo vedendo con la RAI per una cessione, però insomma i tempi sono quelli e i modi sono quelli della RAI, per cui non posso ancora sbilanciarmi. Magari ci farai sapere. Vi farò sapere prossimamente, certamente. Mario, un abbraccio e ti ringrazio, e speriamo grazie a presto. Grazie a te della chiacchierata, e a presto, alla prossima. Ciao. Mario Chemello, regista del documentario Tenacemente Donne. Eccoci con Valerio Carocci del Piccolo America per parlare del concorso documentario Under 40, Under 40, premio Angelo Di Castro. Valerio, ben ritrovato. Ciao a tutti, ciao Federico. Allora, una cosa che mi incuriosiva molto questa iniziativa, visto l'attenzione che riserviamo al documentario e al mondo giovanile cinematografico, mi sembra un'accoppiata attenzionata dal vostro concorso. Parlacene un po'. Abbiamo deciso di inventare questo concorso durante il Festival Trastevere del Cinema, che è l'arena cinematografica che organizziamo da 3 anni in Piazza San Cosimato, dal 1 giugno al 1 agosto, per dare la possibilità di accesso al grande schermo anche alle opere documentariste, appunto, dirette da Under 40. Crediamo che comunque debba essere paritetica la possibilità per i film e per le produzioni di accesso alle sale cinematografiche, e quindi abbiamo immaginato un concorso in cui il premio consiste proprio nell'accesso alla sala. Infatti l'opera vincitrice sarà regolarmente programmata per un mese all'interno del Futuro Cinema Troisi, che si spera andremo a riaprire nonostante i paghi termici tempi delle istituzioni pubbliche. Bene. Senti, allora ci spieghi tutte le modalità, le scadenze? Allora, entro il 24 aprile bisogna consegnare i documentari a info@piccolamerica.it, e c'è il regolamento su www.trasteverecinema.it. Le opere devono durare oltre i 60 minuti, i documentaristi appunto non devono aver compiuto il 40° anno d'età, e l'opera deve essere stata prodotta dal 1 gennaio 2016 in poi. Ok. Senti, per quanto riguarda gli arrivi, già è nutrito il numero dei documentari che vi sono arrivati? Abbiamo già avuti un bel po', siamo sicuramente coperti per le 8 serate dei documentari, poi speriamo di andare oltre. Senti, sarà una scelta, come mi spiegavi, collettiva, nel senso tutti insieme vedete il materiale e decidete poi per la partecipazione. Esatto, il gruppo di ragazzi dell'assemblea vedrà tutti i documentari che saranno inviati, 8 di questi verranno selezionati e proiettati in piazza, che tramite votazione di giuria popolare, quindi con il pubblico, se ne sceglierà uno a cui sarà dato il premio Angelo Di Castro. Senti, a proposito della piazza, già ci sono le date, e poi volevo sapere anche se c'è e che in che misura lo spazio riservato ai doc. In piazza il spazio riservato ai documentari sarà tutti i mercoledì sera, okay, di giugno e di luglio. Ok, già ci sono le date complessive del festival? primo giugno, primo agosto, tutti i mercoledì documentario. Benissimo. Esatto. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web? Allora, i ragazzi del Cinema America per Facebook, il sito è www.trastevericinema.it e per informazioni info@piccolaamerica.it. Benissimo, allora ci sentiamo più avanti per le novità. Saluto tutta la radio e tutti gli ascoltatori. Un abbraccio, ciao Valerio. Un abbraccio, grazie, ciao ciao. Valerio Carocci del Piccola America sul concorso documentario Doc Under 40, premio Angelo Di Castro. E ritroviamo Cristina Mantis, questa volta come regista del documentario Redemption Song. Ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, grazie. Allora, un documentario che ho avuto modo di vedere quest'estate al Clorofilla Film Festival nelle vicinanze di Grosseto. Cristina, questo lavoro, intanto raccontiamo a chi ci ascolta di cosa parla. Guarda, è la storia di Sissoko Abubakar, che è un richiedente asilo, ormai fortunatamente non lo è più, ormai sta in Italia, però quando abbiamo iniziato a girare era lui che ha la voglia di tornare dalla sua gente, rendendosi conto della difficoltà, delle condizioni di vita dei migranti, di molte persone, molti suoi fratelli qui in Italia, il desiderio urgente proprio di comunicare questo, da un lato il falso sogno che spinge tanti a partire, perché c'è un'Europa in crisi ed è soprattutto un'Europa che non li accoglie, ma poi anche comunicare soprattutto i rischi di questa migrazione tra virgolette irregolare, cioè questa migrazione che, se fosse possibile, dovrebbe essere fatta come concesso a noi, no? Noi vogliamo partire e partiamo tranquillamente, ogni volta che ci va andiamo in un'ambasciata, facciamo un visto e partiamo, però considerato il fatto che questi visti non vengono dati, si è costretti ad un tipo di immigrazione che poi viene definita irregolare e che vede l'attraversamento del deserto, le insidie che si trovano, trafficanti e quant'altro, le carceri libiche soprattutto, e poi il mare, e poi via via, quando si arriva si pensa che l'inferno sia finito, invece c'è un altro inferno che è quello del centro di accoglienza, che spesso si conclude con dei rimpatri. Quindi ecco, alla base di tutto c'era questa esigenza forte di far comprendere questi rischi in territori, in paesi di provenienza, dove questa informazione non viene data. Mm-hmm. Senti, com'era partito tutto il progetto? Allora, era partito perché in realtà io volevo fare semplicemente una ricognizione nei centri d'accoglienza per incontrare questi ragazzi meravigliosi che sono i veri eroi del nostro tempo, che arrivano su queste coste e hanno la forza di lottano per rimettersi in piedi, per lavorare, per mandare dei soldi alle famiglie, per ricrearsi una vita, e volevo sapere quali erano le loro istanze, il loro sentire, i loro sogni. Però poi si è trasformato in altro, ovviamente, e si è trasformato bene anche secondo me per il fatto che Sissoko Abubakar, che è il protagonista del documentario ma è a tutti gli effetti anche il coautore, ha voluto anche iniziare un tipo di discorso differente con la sua gente una volta in Africa, cioè un tentativo di appunto nel titolo Redemption Song, un canto di redenzione, ecco, uno scatto d'orgoglio per cercare non solo di invertire la rotta dell'Africa legata ai rischi, ma soprattutto di invertire lo sguardo dell'Africa verso l'Occidente. Cioè, migrare sì, migrare è il diritto di ogni essere umano, ma la consapevolezza di quello che accade bisogna averla, e soprattutto, perché no, ripensare anche il proprio futuro in Africa, visto che l'Africa è meravigliosa e lavorandoci bene insieme ai propri governanti, facendo un bel discorso, spingendoli ad occuparsi dei giovani e della loro dimensione lavorativa, probabilmente si raggiungono anche anche altri risultati, che è quello appunto di non abbandonare i propri affetti, di non essere costretti, come dice Papa Francesco, ad abbandonare la propria terra, ma a rimanerci, a vivere lì immersi in quella meraviglia. Senti Cristina, quali sono state le tappe del vostro viaggio e più o meno quanti interlocutori avete avuto? Guarda, siamo stati in Senegal, in Guinea, abbiamo attraversato la frontiera tra Guinea e Mali, e sicuramente quello è stato uno dei momenti più emozionanti e anche toccanti nel documentario, dove abbiamo visto questa distesa di miniere che sembrava di stare su Marte, no? Tutte buche, terra rossa, e tutte buche, questi ragazzi tutti sporchi di terra rossa, che con i picconi scavavano per scendere a cercare l'oro. La maggior parte di loro erano ragazzi che avevano dei diplomi, alcuni venivano addirittura dalle università e cercavano la chance della propria vita, tentando di trovare qualche granellino, più di un granellino d'oro, che gli consentisse poi di viaggiare, perché davvero le condizioni di vita sono impossibili. Abbiamo incontrato ospedali senza luce, senza acqua, interi villaggi dove magari c'è un solo pozzo. Poi però siamo stati anche all'Île de Gorée, una dimensione differente, diciamo, adesso anche molto frequentata dai turisti, in Senegal, l'isola degli schiavi, dove c'è questa casa degli schiavi, simbolo patrimonio mondiale dell'UNESCO, dove venivano incarcerati gli schiavi prima di partire per le Americhe, e c'è questa porta di non ritorno davvero emozionante, cioè tu ti metti lì di fronte e vedi questa porta, davvero hai la sensazione di sentire queste anime che poi sono andate via. Senti Cristina, che impressioni ti ha lasciato questo percorso africano? Beh, sicuramente innanzitutto la voglia di tornare in Africa, non farei altro che stare lì, sinceramente sto anche meditando di tornarci presto, e speriamo anche di ritornarci non solo per lavoro, ma per la gioia di poter vivere quei luoghi. E poi vabbè, mi ha fatto comprendere la necessità nostra di rapportarci all'argomento della migrazione, cercando innanzitutto di migliorare il nostro discorso empatico interiore, perché prima dei muri, dell'abbattimento dei muri fisici, bisogna abbattere i nostri muri interni, e per abbatterli bisogna conoscere. Allora far vedere la realtà dei paesi di provenienza sicuramente ti porta ad una maggiore comprensione ed empatia. E poi lasciare anche parlare un protagonista, perché sai, noi autori spesso ci facciamo, ma non vorrei usare il termine, le pippe mentali, però esiste, cioè non saprei come renderlo meglio, cioè questa voglia di dire, ah, noi diamo la voce a chi non ha voce, ma se la devi dare allora dalla. Allora mi ha fatto capire a me in prima persona che era necessario, ma comunque io ho sempre in genere fatto questo, cioè ho fatto in modo di dare carta bianca ai protagonisti. Poi vabbè, nel montaggio è ovvio che poi si rimette tutto in discussione, ma non stare lì con il mio punto di vista ossessivo a voler far andare le cose per come il punto di vista dell'autore esce. Comunque però è necessario ascoltare la voce di chi andiamo a intervistare, di chi andiamo ad incontrare, quindi sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista umano è stato un notevole arricchimento questo incontro con l'Africa. Senti, in questo periodo il documentario ha fatto tutto un suo percorso che è arrivato a toccare anche le istituzioni. Sì, guarda, questa è una delle cose più importanti che sono accadute. Dopo la vittoria di Rai Cinema, come questo riconoscimento che abbiamo avuto, e poi il sostegno di Amnesty International, sicuramente la presentazione del documentario neanche 15 giorni fa alla Camera dei Deputati con Link 2007, che sono un'associazione di ONG che lavora da anni in Africa e non solo, e questo è davvero un fatto in cui noi speriamo molto. Che cosa è successo? È stato presentato un progetto che vede il documentario come capofila di una di un movimento di sensibilizzazione che noi vogliamo fare. Del resto il documentario è nato per questo scopo, quindi la voglia insieme a ONG, a Link 2007 e quindi alla cooperazione internazionale, si spera di fare questo giro di sensibilizzazione in Africa occidentale, in 7, 8, 10 paesi, non so quanti, però per proiettando il documentario, a cui poi deve seguire un dibattito e successivamente, dove è possibile, anche dei concerti fatti dai musicisti che parlano, che cantano nella lingua del luogo, e quindi riproponendo anche le tematiche affrontate nel documentario e favorendo un maggior impatto nella sensibilizzazione che noi, ripeto, riteniamo assolutamente necessaria. Quindi il progetto è stato lanciato, adesso speriamo che venga accolto e che quindi possiamo davvero realizzare questo piccolo sogno comune a molti. Del resto è un sogno collettivo quello che in qualche maniera si riduca questa emorragia che sta dissanguando l'Africa. Ci lasci le informazioni sul web, dove i riferimenti quali sono, Cristina, per saperne di più? Chi vuole vedere il documentario, sicuramente c'è un DVD in vendita distribuito da Cecchi Gori, quindi qualora fosse difficile accedere alle proiezioni, uno può anche, volendo, acquistarlo sul web, altrimenti andare a seguire la pagina di Redemption Song, pagina Facebook, oppure le pagine dei produttori, dei distributori Movimento Film, Solaria Film, Lago Film, e in questa maniera avere delle notizie sul nostro percorso. Benissimo. Cristina, io ti abbraccio, ci sentiamo per le prossime. Vi ringrazio tantissimo, è sempre una gioia immensa interagire con voi. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao Cristina. Ciao Federico. Ciao. Cristina Mantis, regista del documentario Redemption Song. Rossella Schillaci, regista del documentario Libere, in uscita in sala il prossimo 20 aprile. Rossella, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Ci sentiamo oggi perché poi tu sarai fuori e non avremo modo di parlare la settimana prossima, però insomma con un certo anticipo diamo questa bella notizia dell'uscita in sala di questo documentario che parla di, Rossella, raccontalo un po' a chi ci ascolta. Allora, parla di donne, lotta, aspetta, la rifaccio, parla di donne, resistenza ed emancipazione femminile. Ok, senti, raccontaci un po' come è nato tutto il progetto. Ma mi è stata fatta una proposta da Paolo Olivetti, che è la direttrice dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, che già da qualche anno in realtà ha ritrovato, riascoltato tutte le interviste che hanno fatto in archivio da 30 anni a questa parte, e parlandone insieme è venuto fuori l'idea, soprattutto la sua esigenza, di raccontare la resistenza dal punto di vista delle donne usando le interviste che loro avevano fatto, perché a suo parere il racconto sulla resistenza era sempre stato molto maschile e c'era stato poco la prospettiva femminile, unicamente femminile. E in effetti io ho iniziato ad ascoltarmele, ci sono delle interviste bellissime, ed emergevano degli aspetti che a parer mio, o almeno per quello che ne so io, non sono mai venuti fuori parlando di resistenza, e soprattutto non è mai venuto fuori tutto quello che succede dopo la liberazione. Nel senso che molte interviste anche purtroppo si fermano raccontando della grande gioia, chiaramente della grande festa per la liberazione, ma poco si sa di cosa accade subito dopo la guerra. Ed è interessante perché per le donne è stata una grande delusione, perché loro hanno, la cosa più interessante è che loro hanno lottato non solo per contro il fascismo, contro il nazismo, contro gli invasori, ma hanno lottato anche per se stesse, perché chiedevano, oltre a chiedere che finisse la guerra, che i fascisti se ne andassero, chiedevano parità di diritti e parità di salario per le donne. Quindi quello che mi ha colpito è stata questa sorta di lotta su due livelli, due binari. Quindi c'era anche una lotta per acquistare gli stessi diritti degli uomini, e tutti si aspettavano un mondo diverso, lo dicono chiaramente, dopo la liberazione, che non c'è stato, nel senso chiaramente la situazione, non c'era più una dittatura, c'era una repubblica, però per le donne è stato molto difficile nel dopoguerra. Uno degli aspetti che mi ha sorpreso era stato anche quello, ad esempio, se vogliamo definirla così, della liberazione sessuale, perché si immagina sempre la resistenza chiaramente in un ambito cupo, però ci sono stati anche momenti di grossa vitalità e slancio, per esempio dal punto di vista sessuale molte partigiane hanno conosciuto una sorta di liberazione anche nel rapporto con gli altri partigiani. Ma sì, infatti la resistenza per le donne, che in realtà poi non erano donne, cioè considerando con i canoni di oggi erano ragazzine, perché avevano 15, 16, 17, 18 anni, è stato un momento estremamente importante e bello sotto certi aspetti, perché innanzitutto sono uscite da casa, nel senso sono uscite dal ruolo domestico dove erano confinate, hanno lavorato al posto degli uomini. Teniamo conto che hanno preso tutti i posti che erano degli uomini nelle fabbriche, in campagna, ovunque, hanno lottato a fianco dei compagni e hanno capito di avere esattamente le stesse capacità, e anzi erano molto, ci hanno messo anima e corpo, erano bravissimi in tutti i ruoli che venivano loro affidati. E la cosa che è emersa poco, un po' per pudore, e appunto anche la libertà che si sono prese in tutti gli ambiti, anche quello emotivo, sentimentale, quindi sono nati chiaramente tantissimi amori tra giovani, e i rapporti sia in brigata che in città erano assolutamente paritari, e quindi le donne giustamente non avevano più i limiti, i vincoli, gli obblighi che avevano una situazione precedente. Per loro quello era un periodo straordinario in cui appunto tutti i divieti crollavano e loro potevano decidere di fare quello che volevano. Sì, infatti sì. Sono nati tanti amori, ci sono stati anche tanti matrimoni, ho scoperto che sono stati ci sono stati proprio su in brigata in montagna, celebrati a volte da preti e a volte da laici. Sì, mi ricordo un'intervista in particolare che diceva del ruolo del femminismo alla fine degli anni 70 e della rivoluzione sessuale, dice: ma noi l'abbiamo proprio vissuta durante la resistenza, quindi è un processo che è cominciato già molto prima, insomma. Invece per quanto riguarda il dopo della guerra, come dicevi tu, è un ambito invece poco evidenziato, in cui per esempio il lavoro per i partigiani non c'è, le partigiane non c'era, gli venivano preferiti gli ex fascisti in quanto ritenuti più affidabili da un punto di vista di disciplina, e quindi c'è stata anche una grossa sofferenza da questo punto di vista. Sì, la cosa che mi ha colpito da quasi tutte le interviste, che appunto secondo me era poco raccontata, è questa delusione, perché per molte usano il termine di restaurazione, cioè si è passati dalla rivoluzione che ci si attendeva alla restaurazione, nel senso che era molto difficile trovare lavoro in generale, perché era un periodo di grande miseria subito dopo la guerra, sì, prima che arrivassero tutti gli aiuti. Essendoci poco lavoro, appunto, venivano preferiti gli ex fascisti piuttosto che gli ex partigiani, perché gli ex partigiani avevano appunto questa fama di essere degli scapestrati, violenti, rivoluzionari. Gli ex fascisti erano più disciplinati. In tutto questo, chi è stato maggiormente penalizzato chiaramente sono state le donne, perché già c'era poco lavoro per gli uomini, pochissimo lavoro per i partigiani, nulla per le donne. E quindi si sono ritrovate dopo un così intenso periodo, no, di lotta, di organizzazione, di lavoro, a ristare a casa, e ci è voluto molto tempo per loro per poter di nuovo riniziare. Per molte hanno deciso di continuare con la politica, anche lì c'è stata una grossa delusione, perché poi anche all'interno dei partiti, sia di destra che di sinistra, non hanno poi ottenuto ruoli di potere, erano un po' relegate a ruoli secondari. Però molte, soprattutto le più giovani, hanno potuto studiare, perché nel dopoguerra c'erano delle scuole di partito in cui le ragazze e i ragazzi potevano studiare, sono andate avanti e hanno iniziato a insomma, impegnarsi per frequentare anche altri tipi di corsi di studio. Teniamo conto che fino a prima della guerra le donne non potevano fare parecchi mestieri, quindi molte non studiavano, anche per problemi chiaramente economici. Mm-hmm. Però anche chi se lo poteva permettere, le donne che potevano permetterselo, miravano a fare le insegnanti, non erano aperte tutte le carriere. E invece la grande possibilità per molte di loro è stata quella di poter studiare e piano piano fare, insomma, progredire sia nel lavoro che nella politica. Mm-hmm. Rossella, nei titoli di coda ci sono anche delle brevi schede, delle interviste, cioè delle donne, delle partigiane, di cui ascoltiamo in audio le loro interviste. Quante sono state quelle che avete selezionato per questo lavoro? Sono circa una ventina. Senti, mi spieghi anche, ci racconti anche com'è nato l'abbinamento tra le voci delle intervistate e le immagini d'archivio? Sì, la cosa che io ho scelto di fare dall'inizio è stata proprio quella di non usare le immagini delle donne intervistate, perché molte interviste erano più recenti ed erano in video. Però durante la ricerca dei materiali visivi, l'istituto di Biella Vercelli ci ha procurato delle foto bellissime, le prime fotocolori realizzate soprattutto imbrigliate in montagna, di donne partigiane. Lì mi ha colpito vedere il fatto che, appunto, quello che dicevo prima, non erano donne, erano bambine, erano ragazzine, e questo aspetto secondo me non emerge guardando e ascoltando le anziane partigiane. Non ci si riesce a immaginarle da bambine o da ragazze. Quindi ho deciso di, appunto, non usare assolutamente il loro volto da adulte, ma andare a ricercare tutto il materiale che ritraeva loro o altre durante proprio quel periodo. E infatti anche nei titoli di coda abbiamo messo un'immagine delle donne intervistate dell'epoca in cui, quindi da quando erano giovanissime, dell'epoca in cui c'era la resistenza. E da lì è stato un lungo lavoro di ricerca, grazie, appunto, a Paolo Olivetti, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, grazie all'AMOD di Roma, all'Archivio di Ivrea, insomma hanno collaborato tantissimi archivi a farci più immagini possibili delle donne in quegli anni, e abbiamo cercato di seguire, ho cercato con le interviste di seguire una sorta di filologico anche in qualche modo temporale, e in base ai vari temi di associare il materiale che trovavamo. Ci sono state parecchie scelte poi di montaggio diverse in base proprio ai temi che venivano fuori. Senti, ci racconti anche un po' il percorso che ha portato all'uscita in sala il prossimo 20 aprile? Sì, devo assolutamente ringraziare il distributore, che è Lab 80 Film di Bergamo, che aveva visto una prima versione breve di mezz'ora, e insomma con loro si è lavorato, e soprattutto Alberto Valtellina ha subito visto un po' le potenzialità del film, il fatto che potesse essere un lungo e potesse avere una diffusione cinematografica. Così abbiamo un po' affrettato i lavori, e grazie a lui verrà distribuito, adesso credo che siano già una ventina di sale in Italia durante il periodo della resistenza, chiaramente, quindi dal 20 aprile al 1 maggio più o meno. Bene. È stato di grande aiuto. Grazie a lui anche ho avuto il contatto di un musicista, Giorgio Canali, che ha fatto una colonna sonora che è splendida, da veramente una marcia in più al film. Sì. E c'è anche questo livello in più. Sì. Mi ha ricordato molto lo stile Zamboni. Sì, ma loro collaborano insieme. Ah, ecco, vedi. Sì. M'ero confuso, pensavo fosse lui invece. Senti, Rossella, possiamo anche anticipare il fatto che a me, vedendo il documentario, è venuta in mente l'idea di programmare all'interno dello spazio del radioteatro di Onda Rossa l'audio del tuo lavoro, con quindi anche le relative musiche, il prossimo martedì 18 di aprile, e sperando poi in una replica registrata proprio il giorno del 25 aprile. Quindi se a te va bene potremmo anche risentirci martedì per parlare nuovamente del tuo lavoro. sì. Benissimo. Allora, invito tutti a andare a vederlo lì, perché certo, sarà solo per una o due settimane, e per avere maggiori informazioni basta andare sul sito di Lab 80 Film e c'è l'elenco di tutti i cinema che lo proietteranno. C'è anche un sito internet, una pagina Facebook proprio del documentario? Non l'abbiamo ancora fatto perché stiamo correndo per poi okay. Tempo. Però sulla pagina Facebook di Lab 80 Film ci sono tutte le informazioni. Rossella, un abbraccio e ci sentiamo tra qualche giorno. Grazie mille, buon pomeriggio. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Rossella Schillaci, regista del documentario Libera, in uscita in sala il prossimo 20 aprile. Ed eccoci in collegamento con Francesco Conte, curatore del progetto Termini TV. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Allora, mi incuriosiva molto questo progetto, ce ne parli un po'? Guarda, è nato tutto 2-3 anni fa, quando io non sono di Roma, sono di Ancona delle Marche e mi ero trasferito in zona Castro Pretorio. E non conoscendo nessuno a Roma ho iniziato a bazzicare Termini, e a Termini chiaramente si conosce il mondo, quindi poco alla volta, io essendo insomma facendo video, essendo appena visto facendo queste cose qua, ho pensato sarebbe bello fare una TV di quartiere, in un quartiere che non è un quartiere, in un quartiere che cambia sempre, ogni giorno c'è un mezzo milione di persone che ci passa e magari molti non si fermano insomma a pensare di conoscere le persone che incontrano durante la giornata, magari sono di fretta. E quindi è iniziato come una sorta di progetto da un certo punto di vista artistico, però con un occhio su sociale, insomma sulla gente che appunto frequenta Termini più spesso, mm-hmm. Ovvero chiaramente anche ci sono senza tetto, migranti, persone che insomma sono sole, diciamo, ma non soltanto, perché è anche un luogo di passaggio per tutti i viaggiatori, qualsiasi straniero che arriva in Italia al primo posto che vede è Termini. Cioè, anche venendo da Fiumicino, quindi è un luogo insomma, se i muri potessero parlare, è stata la mia formula, diciamo, per pensare cosa raccontare di Termini, ovvero far raccontare direttamente le persone i loro viaggi, le loro migrazioni. Mm-hmm. Francesco, è un progetto che hai cominciato da solo e poi si è allargato? No, il progetto, diciamo, l'idea è nata in seguito a un brainstorming con varie persone. Io okay. Volevo fare una web TV al Pigneto, figurati, perché abitavo al Pigneto. Poi mi hanno fatto notare, cioè per una serie di incroci e di coincidenze è nata l'idea di farlo a Termini, perché appunto è un luogo molto più di passaggio per tutti, diciamo, più trasversale. E eravamo in 8 all'inizio del progetto, poi per varie difficoltà, incluso il fatto che non ci fanno filmare dentro la stazione come d'altronde a tutti, quindi con un po' di difficoltà nel poter filmare liberamente, alcuni diciamo si sono arresi e altri sono arrivati, il gruppo è cambiato varie volte, in questo momento siamo 4-5, però abbiamo fatto video in tante stazioni, non soltanto Termini, qualsiasi binario, qualsiasi stazione è importante. Infatti adesso è un progetto totalmente volontario che portiamo avanti da appunto un paio d'anni. Adesso abbiamo fatto il nostro primo crowdfunding per un progetto in particolare che si chiama Refugee Tracks, binari di confine, che ci porterà da Trieste a Ventimiglia seguendo i binari e storie di migrazione. Quindi insomma è il concetto della stazione e del binario come un rapporto, come un raccoglitore di storie, non soltanto Termini, è diventato qualcosa di più, insomma un concetto proprio sulla migrazione come fenomeno universale. Mm-hmm. Francesco, quando è cominciato tutto e poi nel corso del tempo quanti video avete messo in piedi? L'idea è stata nel novembre 2014, il sito è online dal 25 aprile 2015. Abbiamo scelto un nome simbolico perché così me lo ricordavo innanzitutto e poi soprattutto perché appunto era l'idea di liberarci un po' dalla narrazione tossica, costante, che fanno siti per esempio come Roma fa schifo o altre cose, che quando parlano di Termini ne parlano sempre soltanto in senso del degrado, no? Per noi c'è molto di più di questo, quindi questa è diciamo la nascita. I video che sono già online sono circa 400, quindi quasi uno al giorno. È un bel archivio. Sì, c'è tanta roba, io ho 6 terabyte soltanto su stazioni, viaggi, e adesso sto lavorando appunto a questo crowdfunding, se riusciamo, se no farò un documentario e insomma sto iniziando anche a scrivere le storie che non ho potuto filmare, perché chiaramente molte persone poi non si fanno filmare. Mm-hmm. In questo momento ci sono ragazzi, che una ragazza, Veronica, sta facendo un progetto fotografico soltanto con un giornale che si chiamerà Il Nostro, che sta iniziando adesso. Faremo una rubrica scritta, insomma stiamo cercando di uscire anche da internet e dal fatto soltanto dei video, e cerchiamo di collaborare il più possibile con altre organizzazioni, collettivi, entità che vogliono, che capiscano il senso del nostro lavoro e che lo valorizzino. Senti, a partire da queste 400 e passa interviste, che mosaico si è composto, Francesco? Fai conto che le interviste saranno più di 1000, queste qui sono quelle montate. Ah, e okay. No, nel senso, il mosaico è che chiunque migra per motivi del tutto peculiari e del tutto circostanziali, nel senso che alla fine ognuno si muove in un determinato posto un po' a caso, perché ha incontrato una persona, un amore, un lavoro, e quindi questo ci porta anche a rispettare l'identità, l'unicità di ciascun cosiddetto migrante, perché non è che se le persone sono soltanto delle masse, dei numeri, dei flussi, ogni persona poi ha la sua motivazione, le sue sofferenze, le sue passioni. Quindi a me personalmente ha portato a guardare con qualunque persona di cui possa avere un timore come potenziale fonte di una storia che io non conosco. Mm-hmm. E quindi cercare proprio di superare il distacco che abbiamo quotidianamente rispetto alle persone che ci stanno di fronte in metro, sul tram. Quindi il mosaico è quello di persone che spesso non riescono a trovare ascolto, non riescono a esprimersi per vari motivi, e che invece se approcciate nel modo giusto, comunque sia se lasciate esprimere, riescono appunto a raccontare le storie che noi non immagineremo mai, e di storie insomma inimmaginabili ce ne sono state varie, però insomma quello che c'è in comune a tutti è l'unicità. Un paradosso, però insomma è così. Mm-hmm. Senti, nella scelta dei vostri interlocutori vi ha guidato la casualità, oppure ci sono stati dei criteri? Ma è chiaro che le persone più interessanti, cioè si tratta di un video, no? Quindi qualcuno che buca lo schermo è sempre più interessante di qualcuno che sembra normale, diciamo. Detto questo, appunto, la casualità, diciamo che io ho portato spessissimo musicisti, per esempio, a Termini, no? Porto dei musicisti che suonano, e nel momento in cui le persone si mettono a suonare davanti alla stazione, o addirittura dentro la stazione, quando ancora ci facevano filmare dentro senza dirci nulla, quando tu porti qualcuno a suonare si crea una situazione, si avvicina un curioso, quindi in qualche modo sono loro che scelgono noi, a volte vedono che stiamo filmando, si incuriosiscono, io dico: te che fai, dove vai? Quindi insomma è un reciproco scegliersi, anche perché tanto se fermi qualcuno, appunto soprattutto a Termini, dove è pieno di gente un po' strana, spesso pensano che quelli strani siamo noi, quindi non si fermano. Mm-hmm. Per esempio adesso stiamo facendo una rubrica che si chiama che è dell'oroscopo, praticamente, con un poeta cuneese che si chiama Giovan Bartolo, e fermiamo le persone, gli chiediamo il segno zodiacale, insomma è esilarante, e scegliamo le persone anche per, appunto, molti stranieri, molte persone di origine straniera, perché è anche interessante interagire con loro di altre cose che non sia soltanto il parlare della loro origine, no? Quindi gli chiediamo che segno sei, magari non sanno manco che segno sono, no? Piuttosto che abbiamo fatto delle domande, che ne so, su Marino, quando c'era Marino, a delle persone che non votavano in Italia, ma che comunque sia, per noi è interessante sapere che opinioni hanno, perché non possono parlare soltanto del loro essere stranieri, i cosiddetti stranieri. Questo penso che sia la cosa più importante per quanto mi riguarda per Termini TV, questo e gli italiani senza cittadinanza, ovvero tutti quegli italiani, circa 800.000, che sono cresciuti qua e che ancora non hanno la cittadinanza. Moltissimi si incontrano in zone come Termini o Milano Centrale o altre stazioni, le metro, e insomma per noi è interessante raccontare questa realtà che è spesso soltanto underground, ma in verità è anche sotto gli occhi di tutti, insomma è pieno, la stazione è il simbolo della multiculturalità, no? Quindi per noi chiaramente è interessante anche questo. Mm-hmm. In chiusura, Francesco, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, il sito è www.termini.tv, c'è anche una versione in inglese, in alto a sinistra c'è un motore di ricerca anche all'interno, e poi c'è la pagina Facebook Termini TV, YouTube, Twitter, e chi più ne ha più ne metta. Poi per Refugee Trucks ci sta proprio una pagina per il crowdfunding, che finisce tra 10 giorni, e sarebbe bellissimo insomma riuscire a farcela, non sarà facile, ma insomma per chi volesse lì sul sito termini.tv al centro ci sta scritto tutto. Bene, allora Francesco un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, buona giornata a tutti, ciao. Ciao, ciao. Francesco Conte, curatore del progetto Termini TV. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Parliamo ora di una proiezione di un documentario intitolato Diagnosing Difference di Annalise Ofelian, che sarà al Lula Hop Club qui a Roma il prossimo 15 aprile. Ne parliamo con Marta di Transmission. Marta, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, ciao. Sì. Ben trovata. Allora, io comincerei subito parlando di Transmission. Cos'è Transmission? Transmission, diciamo, esiste da un paio d'anni ed è da un po' che facciamo iniziative. Siamo un gruppo di persone che ha deciso di usare lo strumento del cinema per riflettere su tematiche legate a persone transgender. E, un po' sull'inizio, ma si riflette su patologizzazione e depatologizzazione, sulle esperienze delle persone trans, sul ruolo della transfobia in relazione anche alle altre varie oppressioni. E ad esempio prossimamente ci sarà un evento su insomma tematica anticarceraria, e dove proprio è evidente come la transfobia condizioni tutti gli aspetti della vita e diventa anche un aggravante per le oppressioni strutturali di tutti e tutti. E questa è una delle prossime iniziative. Ok. Senti, poi avete anche uno spazio web di riferimento? Sì, abbiamo per adesso una pagina Facebook, che basta cercare Transmission e si trova. Non è frequentatissima, però stiamo migliorando. Senti Marta, la scelta di questo lavoro come viene? Come l'avete scelto questo documentario? Questo documentario viene intanto in continuità con uno dei primi eventi che abbiamo fatto, che si chiamava Test della Vita Real, ed era proprio su questa esperienza che prima della transizione bisogna fare per dimostrare che si è in grado di vivere nel genere a cui si appartiene. E questo è proprio in continuità con quest'altro film. È molto incentrato sulla diagnosi e quindi su aspetti psichiatrici, ma anche politici, e quindi sul ruolo della psichiatria o comunque sulle oppressioni che si vivono le persone trans. E una delle cose fondamentali è che proprio sono le persone trans che si raccontano proprio loro in prima persona. Ed è proprio un nodo chiave, perché nel film mettono sempre in evidenza la contraddizione del fatto che la narrativa medica e psichiatrica è quella che lì le definisce, mentre loro vogliono definirsi nella loro esistenza invece di essere diciamo inseriti in una realtà prestabilita. Quindi la scelta è stata proprio perché era un argomento di cui si era già parlato e ha creato un dibattito anche abbastanza forte. Senti, tenuto conto che questo lavoro è del 2009 e si svolge negli Stati Uniti, quali sono a tuo modo di vedere le differenze rispetto all'universo trans italiano? Beh, guarda, cioè, di differenze ce ne saranno tantissime. Cioè, già in termini temporali, che tra il 2009 e il 2017, anche proprio da un punto di vista medico-legale, di cui parlano le persone stesse nel documentario, è completamente diverso. Sì. Da un punto di vista, diciamo, terminologico, perché poi le pratiche e la realtà rimane più o meno uguale. E da un punto di vista anche di chi fa parte di chi viene intervistato in questo documentario, sono accademici, attivisti, persone trans non bianche, con vari tipi di esperienze, persone trans anche non binarie, quindi comunque portano una varietà e hanno una diciamo anche una riflessione, penso anche un'esperienza e un passato che magari rispetto a quello, diciamo, della realtà italiana è diverso. Ora, in che modo, non vorrei entrare in una dissezione di magari varie cose, sì. Però già sapere che sono due paesi, cioè che l'America, cioè gli Stati Uniti e l'Italia sono due paesi estremamente diversi dal punto di vista di passato, proprio di un passato coloniale, di minoranze, di segregazione, cioè comunque hanno tutta una serie di aspetti che sono estremamente diversi, sì, anche sì, se poi simili probabilmente sotto altri, quindi non entrerei in un discorso così ampio. Senti Marta, come avete organizzato e strutturato la serata? Come sarà? La serata inizia con, insomma, inizia alle 8:30 e poi si cerca di iniziare più o meno per quell'ora la proiezione del film, che dura un'ora, e dopo il film noi facciamo, insomma, un dibattito dove poi le persone possono sia raccontare, cioè, se vogliono, le proprie esperienze, o comunque si dibatte sul tema del film, si discute, proprio perché si crea una varietà anche di persone che magari non si affacciano ai nostri soliti percorsi di lotta, ma vengono anche da altri contesti, e si riesce a creare anche un dibattito vario. E dopo di solito il dibattito dura un'oretta, poi dipende da quello che succede, da come è partecipato, e poi dopo il dibattito spesso si rimane lì a chiacchierare. Ok. Senti, a questo punto ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Per l'evento c'è la pagina Facebook, sempre Transmission, e anche sul sito dell'ULOP si trova l'informazione. Okay. Se poi qualcuno vuole fare delle comunicazioni può utilizzare sempre la pagina Facebook e mandare un messaggio. Abbiamo anche una mail, se vuoi posso dire anche quella. Certo. Che è transmission.rome@gmail.com. Perfetto. Se qualcuno vuole comunicare o chiedere qualcosa, rispondiamo. Ok. Siamo in un po' di persone. Ok, allora ricordiamo l'appuntamento all'ULAOP Club qui a Roma il prossimo 15 aprile, sabato, a partire dalle 20:30, giusto? Sì, giusto. Ok. E allora magari ci sentiamo per le prossime iniziative. Sì, seguiteci. Okay. Ok, ciao Marta, un abbraccio. Okay. Ciao. Ciao. Marta di Transmission sulla proiezione del documentario Diagnosing Difference, un documentario statunitense del 2009 di Annalise Ofelian. Eccoci con Gianluca Guzzo di My Movies per parlare degli sviluppi del portale. Gianluca, ben ritrovato. Eccomi, ciao, buongiorno a tutti. Ciao Federico. Stiamo parlando in questo caso del chatbot e mi incuriosiva molto perché tutto quello che riguarda la settima arte, le sue trasformazioni anche grazie al digitale e alla rete mi incuriosisce, quindi queste nuove aspettative, queste nuove prospettive, insomma, riguardano anche la trasmissione in qualche modo. Allora Gianluca, ci ne parli un po' tu? Sì, assolutamente. Intanto grazie per l'opportunità di potervi raccontare questa cosa. Insomma, sì, sono il chatbot di Facebook, utilizziamo il chatbot di Facebook per dire la programmazione delle sale e comunque orientare ancora una volta il pubblico alla scelta dei film, fondamentalmente, è in un modello molto semplice. E la grande novità qui sta nel fatto che non si debbano scaricare altre applicazioni, che questo è il problema probabilmente del momento, no? Il fatto che comunque ci sia un'invasione di applicazioni da scaricare, sì, sulle varie piattaforme, tutte molto interessanti, tutte brillanti, però fondamentalmente spesso ci troviamo a non avere spazio, no? Sul nostro device, e perché insomma comunque sono tutte belle. Qual è la novità? La novità è che tu invece puoi usare l'applicazione di Facebook, che più o meno abbiamo tutti, o anche di altre applicazioni, per poter consultare la programmazione nelle sale, poter consultare quali film sono disponibili attorno a te, e quindi andare in modo più rapido al cinema, con la possibilità addirittura di comprare il biglietto. Questo sono novità veramente rivoluzionarie, perché personalmente immagino che più è facile recarsi al cinema, più è facile offrire la possibilità di andare al cinema e più si fa consumo di questa esperienza. Ecco perché pensiamo che sia una grande opportunità questo servizio. Gianluca, proprio a questo proposito mi veniva subito in mente la curiosità: se rispetto ai dati della fruizione delle sale abbiamo qualche numero rispetto ai dati recenti? Ma parli già dei risultati del bot? No, perché, della perché quello l'abbiamo appena lanciato. Certo, e devo dire che comunque insomma i primi dati sono veramente incoraggianti, perché sono ben oltre le aspettative, mentre ben oltre le aspettative sono stati anche i numeri che abbiamo fatto sul sito. Il sito a gennaio sono appena usciti i numeri di Audiweb in questo senso, e ci ha dato a 7 milioni di utenti unici, quindi di visitatori su un numero decisamente importante. È bello, ma bello nel senso che è un'arte che evidentemente piace, che ancora ha il suo fascino e il suo appeal. Chiaramente abbiamo ampliato la nostra attività editoriale, ci siamo molto aperti anche alle serie TV, e questo sicuramente fa arrivare nuova audience, ma siamo molto contenti di questo risultato. Senti, no, ti chiedevo invece se rispetto a, per esempio, al 2016, relativamente all'anno precedente, cosa ci dice il consumo della sala? Insomma, il consumo della sala invece fatica un po'. Fatica. La sala cinematografica fatica. Sta faticando. In questo momento storico sta faticando. Il mese in corso, rispetto a quello esattamente dell'anno precedente, ha un segno negativo veramente importante. E questo è un segnale che assolutamente bisogna tenere presente, e in qualche modo bisogna reagire, bisogna fare qualcosa. Il dato 2016 è stato buono, nel senso che poi si è fatto un 6% in più rispetto all'anno precedente. La partenza del 2017 non sembra invece dare gli stessi risultati. Però insomma, come sai, è anche va molto a periodi, no, il cinema, quindi è possibile che poi troveremo più avanti dei momenti migliori con delle uscite particolari. Sì. Ci sono state delle uscite molto interessanti che hanno portato dei volumi di box office interessanti, tipo la Bella e la Bestia ha fatto dei numeri decisamente importanti. Ci aspettiamo che insomma anche altri film possano migliorare le sorti del box office, e in questo senso insomma siamo lì, insomma già si inizia a pensare a dicembre, e quindi Zalone sì, Zalone no, Zalone nel 2017 o Zalone nel 2018, e questo chiaramente potrebbe spostare i risultati del bilancio 2017-2018. Bene Gianluca, allora io ti ringrazio, ci sentiamo per ulteriori novità prossimamente. Assolutamente, sai che le prime novità partono sempre da te, per tutto quello che riguarda My Movies e il cinema in generale. Grazie. Un abbraccio, a presto, ciao Gianluca. Gianluca Guzzo di My Movies sul chatbot di My Movies, neonato chatbot. Un ultimo collegamento, sì. Con Claudio Casazza, regista del documentario Un altro me, in uscita in sala oggi giovedì 13 aprile, distribuito da Lab 80. Claudio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben trovati a tutti e buona giornata. Ci eravamo sentiti a gennaio, poi come siamo soliti fare ci diamo appuntamento per l'uscita in sala, così è, e per cui oggi ci sentiamo nuovamente. Per chi ci ascolta, Un altro me di cosa parla? Parla del carcere di Bollate, dove esiste l'unico trattamento in Italia per autori di reati sessuali. È un documentario di osservazione che segue appunto un anno intero di questo trattamento psicologico e criminologico, che permette quasi a tutti, si spera il più possibile, questi detenuti di capire quello che hanno fatto, il reato che hanno fatto, capire che esiste un danno per la vittima ovviamente, e soprattutto quando escono fuori non commetterlo più, perché questi tipi di reati hanno spesso una recidiva molto alta. Con questo tipo di intervento, questo tipo di lavoro su di sé, si abbatte drasticamente la recidiva stessa. Claudio, come ci dicevamo anche la scorsa volta, avendo visto il documentario, uno degli elementi più importanti è che nella squadra di criminologi e psicologi c'è una ampia presenza femminile, e durante questi incontri c'è stato anche l'incontro con una donna vittima di violenza sessuale. Sì, diciamo che questo tipo di lavoro permette, come dicevo prima, ai detenuti di capire poco a poco il danno che hanno fatto, e di conseguenza lavorano per vari step. Sono tutti incontri di gruppo e principalmente ascoltano l'altro. Ascoltando l'altro vanno a capire quello che hanno fatto loro, perché si immedesimano più nella vittima che nel carnefice. Leggono lettere di vittime, e in questo caso nel film ci sono tutti questi passaggi. C'è anche l'incontro con una vittima reale che va in carcere e racconta loro la sua esperienza davanti alla vittima reale, e dopo tutto quel lavoro fatto precedentemente, loro arrivano quasi tutti sostanzialmente a capire realmente quali sono le conseguenze dei gesti effettuati. Senti, una curiosità, per esempio, rispetto ai reati di pedofilia, i detenuti hanno un trattamento speciale, perché se rimanessero in cella con gli altri detenuti sarebbero a rischio. Mi chiedo invece, per i detenuti per reati sessuali verso le donne, se in quello che hai potuto vedere in questo anno in cui hai seguito questi incontri, com'è l'atteggiamento degli altri detenuti nei loro confronti? Allora, diciamo che intanto il film e questo progetto è ambientato nel 7° reparto di Bollate, che è il reparto per autori di reati sessuali interi. Okay. Sostanzialmente vuol dire sia donne, bambini, e anche, diciamo, collaboratori di giustizia, diciamo, mettiamola così, o persone appunto da allontanare dagli altri detenuti. Ovviamente nella scala dei reati, ovviamente è una parola non giusta, nella scala dei reati in carcere ci sono i peggiori, e i peggiori sono gli autori di reati su bambini, evidentemente, e che sono messi nella scala peggio che gli reati verso le donne. Gli omicidi vengono prima, invece, gli omicidi sono migliori, diciamo, o anche i serial killer sono migliori nella loro scala. Dico sempre una scala malata, evidentemente, però è così. E spesso gli autori che sono invece in questo progetto, perché appunto fanno questo progetto e di conseguenza ammettono la colpa, cercano di lavorare su di sé, sono considerati peggio ancora degli altri, perché appunto è quasi una missione di colpevolezza ulteriore fare un progetto che cerca di migliorare. Di conseguenza il carcere non è un sistema perfetto, evidentemente, e però questo tipo di lavori fanno sì che le persone si mettano in gioco e capiscano quello che realmente hanno fatto, e tutte queste scale di valori vanno ovviamente a scemare poco a poco, se si interviene realmente con questo tipo di interventi. A Bollate è l'unico, perciò è un esempio che non è la realtà, purtroppo. Sì. Un'altra cosa che di cui parlavamo nella scorsa chiacchierata a gennaio, Claudio, è che nelle interviste quello che dicono questi detenuti, diciamo che fa emergere un problema di fondo sociale e culturale, perché le donne, le ragazze sessualmente libere vengono bollate come una sorta di prostitute, le donne provocanti sessualmente vengono ritenute come corresponsabili della violenza che poi subiranno, e quindi è un problema che va anche al di là dei singoli che commettono il reato, e investe un po' tutto il sociale. No, no, ma certamente, infatti ci sono giovani, vecchi, ventenni, quarantenni, cinquantenni, sessantenni, situazioni sociali le più diverse, laureati, gente ricca, gente povera, c'è di tutto e di più. Di conseguenza identificare un tipo di autore è impossibile, sì. Identificare un tipo di reato non era la mia volontà e non volevo dire questo è il reato, quest'altro è quell'altro. Il problema è generale, il problema è sociale, culturale e di conseguenza riguarda un po' tutti. C'è una statistica che dice che una donna su tre ha subito delle violenze fisiche o psicologiche, vuol dire che un uomo su tre le ha fatte, perciò uno su tre non è facilmente identificabile con un'etichetta, uno su tre è tanto. Sì, sì, sì. Senti Claudio, il percorso che ha portato alla distribuzione in sala, ce ne parli un po'? Il film è partito col Festival dei Popoli, dove ha vinto il premio del pubblico nel concorso internazionale, poi ha vinto anche il primo premio al mese del documentario, ha fatto Trieste Film Festival, Festival del Cinema Europeo e ha fatto una serie di anteprime in alcune sale italiane. Ora la distribuzione è abbastanza microscopica inizialmente, è un documentario, di conseguenza i cinema lo sfuggono come la morte, questo purtroppo è il mondo del cinema, non nascondiamo, cioè è così. Il film che ha vinto due premi del pubblico, di conseguenza il pubblico quando lo vede lo apprezza, ma se non glielo fai vedere è abbastanza difficile che lo apprezzerà. Scusami lo sfogo, ma quando fai un lavoro anche finanziato dal ministero, perché questo film ha avuto anche un finanziamento ministeriale oltre che della Film Commission del Piemonte, e poi non c'è uno sbocco in sala, ovviamente sono soldi pubblici che non vanno al pubblico che dovrebbe poi usufruirne, cioè certo, chi va a vedere il film. Certo. Senti, c'è una pagina Facebook, c'è anche un sito internet, immagino anche i riferimenti, quelli di Lab 80 vadano bene per saperne di più. Sì, sì, la pagina Facebook si chiama appunto un altro me, e da lì ci sono tutte le proiezioni quando ci saranno appunto a spizzichi e mucconi, come si dice, e speriamo che abbia la sua strada, che vada avanti da qui ai prossimi mesi, anche in maniera saltuaria, ma che sia costante. Bene. Allora Claudio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e buon pomeriggio. Ciao, ciao Claudio. Ciao. Claudio Casazza, regista del documentario Un altro me, in uscita in sala oggi giovedì 13 aprile, distribuito da Lab 80, e con lui chiudiamo questo appuntamento settimanale con Visionari, che torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sempre sul sito della radio, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.